fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E buonasera ragazze, noi siamo in diretta con Risto Radio Convento. Io sono in compagnia, non potete crederci, della sposa e di due amiche stupende. Le vogliamo cugine, ancora meglio. Le vogliamo presentare, le faccio presentare direttamente dalla sposa. Sono Piera, la sposa, Vita ed Elvira. Che in realtà Vita si ed Elvira, si chiama Elvira, sì, si chiama Elvira, però abbiamo soprannominata Elvira. Perché voglio sapere perché Elvira. Per farla un po' più all'americana. No, British, che American, no, British. Esatto, cosa fate di bello nella vita? Arrocchiamo niente, proprio niente. Ora andiamo da vivere. Tiriamo a campo. Tiriamo io al lato. Tu? Io al lato. Lì all'alta è una cosa buona e giusta, perché stiamo insegnando ai nostri uomini a fare le pulizie, sì, a casa, esatto. Se poi non le... Così lei all'atta solo i... Magari invece no, ma dico, pulisco, lavo, faccio tutto lo stesso. Fa tutto, ed tutto lei. È incredibile lei. Come una donna così piccola riesca a sentirsi una mucca. Ma, però vedo che ce le ha, eh. No, no, ce le ha. Cioè, voi non potete guardarle, ragazze, ma comunque mi sa bene. Si vedono anche da lontano, si vedono. È piccola, ma... Quelle sono grandi. Arrivano prima loro, direi. Sì, questo è poco ma sicuro. Allora, poiché sei in compagnia di due bellissime cugine, vediamo se loro riescono a farti qualche domanda un po' più frizzantina. Dai. Qualche curiosità sul loro, sul prossimo sposo che avrà... Prossimo. Prossimamente su Canale 5. Ma quanto hot? Ma abbastanza hot, ragazze. Vi voglio proprio... voglio che esprimiate tutte le vostre curiosità in questo momento, guardandola. Dai. Qual è la tua posizione preferita? 69. Ragazze! Cosa si scopre? Dai, vai. Siete fan del sesso all'aria aperta? Ma no. Bella domanda. No. Dovete sperimentarlo, ragazzi. Adesso che vi sposate, sì, è una nota in più. Beh, io sì. Però con lui non ho mai praticato all'aria aperta. En plein air, visto che è vissuto a Parigi. Si può fare, però. Certo. E il posto più strano dove l'avete fatto? Ah, questa è bella, sono curiosa. Beh, in sauna, penso. In sauna? Sì. Ma come fate? Sudate? Sul sudore. In sauna si suda ancora di più. Facile. Scivola meglio, ragazze. Ma anche voi che domande che fate, esatto, però dai. Vero, si scivola, vai, si scivola. Anche il bagno turco, giustamente. Anzi, avete avuto anche il culo di trovarlo libero, perché di solito no, sono un po'... Vorrei sapere, respirate in tutto ciò nel bagno turco? Perché no, lì ti manca l'aria. No, però a volte non ti serve respirare. Vanno in apnea. Voi, ragazze, invece voi l'avete mai fatto un'apnea? Lei sì, perché nel bagno turco. Ragazze. No, io l'ho fatto in una specie di sauna. Una specie? In sauna, sì. Tu eri seduto, avevi coso riscaldato dietro. No, in apnea no, neanche in sauna in realtà. È in qualche posto strano che ti viene in mente? Al mare. Al mare? Io in mezzo a una siepe. Sono fan dell'amplen air, mi sento più in contatto con la natura. Si sente molto naturale, molto Adamo ed Eva. Adatto, senza foglie però, mamma. Senza foglie. Perché se c'avevi le foglie era un po' un problema. Era un ostacolo. Perché altro era anche fastidioso, dire. Da dove venite, ragazze? Adamo, Deva, dalla natura con furore. Noi siamo nati a Palermo, ma viviamo a Verona. Bene, allora siete anche voi terrone come me. Esatto, cosa fantastica. Viva, siamo con terrone. Viva i terroni, ragazzi. Ma se vi faccio qualche domanda, secondo me qui fuori sono un la bel po' di terroni, terrore, eh. Sì. Secondo me sì. Terroni con furore, com'è? Sì. Sì. Terroni col furgone. Col furgone tutti al corvento, giusto? Ci sta, ma mi fa piacere, ragazzi. Allora, mi ha fatto piacere conoscervi. Anche a noi. Io vi lascio un buon proseguimento. Grazie. E un saluto dalla Sicilia. Sicilia. I nomi? Elvira. Elvira. Vita. Piera. Ragazzi, vi auguro una buona serata. Grazie mille. Grazie. Ciao. Grazie.